Quando parli davanti a Dio, non avere fretta con la tua bocca e non essere precipitoso, perché Dio sta in cielo e tu sulla terra. Per questo siano poche le tue parole. Infatti, quando ci si dà troppo da fare, nascono i sogni. Quando si parla troppo, viene il discorso stolto. Perciò, quando fai un voto a Dio, non tardare a scioglierlo, perché egli non è benevolo con gli stolti. Il voto che fai, compilo. Meglio non fare voti che farli e non scioglierli. Non permettere alla tua lingua di farti peccare, e non dire mai davanti al rappresentante di Dio che si trattava di una promessa fatta a cuor leggero. Che Dio non si abbia ad adirare per quello che hai detto e non distrugga ciò che hai realizzato col tuo lavoro. Quando si moltiplicano i sogni e le cose senza senso, lì abbondano le parole, ma tu temi Dio. Se vedi nello Stato l'oppressione del povero, il diritto e la giustizia conculcati, non ti stupire della cosa, perché un funzionario è sopra un altro funzionario e lo sorveglia, e sopra tutti e due vi sono altri funzionari ancora. Il vantaggio del paese viene visto nel suo insieme, e il re è servito in funzione del paese. Chi ama il danaro non si sazia di danaro. Chi è attaccato alle ricchezze non trova entrata sufficiente. Anche questo è vanità. Quando le ricchezze aumentano, crescono anche quelli che le divorano. E che vantaggio ne ha il proprietario se non quello di sapere di essere ricco? Il sonno di chi lavora è dolce, sia che mangi poco, sia che mangi molto, mentre la sazietà del ricco non gli permette di dormire. Un altro brutto guaio ho visto sotto il sole. Una ricchezza che il proprietario sa conservare, ma a suo danno. Quel patrimonio è andato in rovina per un cattivo affare e nelle mani del figlio che aveva generato non è restato nulla. Nudo come è uscito dal ventre di sua madre, così se ne tornerà come è venuto, senza aver ricavato nulla dalle sue fatiche da portare con sé. Anche questo è un brutto guaio. Come uno è venuto, così se ne va. E che vantaggio gli resta dall'aver faticato per nulla? E in più ha vissuto tutti i suoi giorni nella tenebra. Si è annoiato molto, ha avuto guai e arrabbiature. Ecco in che ho capito che consiste il bene dell'uomo. Consiste nel mangiare, nel bere e nel vedere il successo di tutta la fatica con cui egli si affatica sotto il sole nei giorni contati della sua vita che Dio gli ha concesso. Che questo è ciò che gli tocca. E c'è anche questo da dire, che se Dio concede all'uomo ricchezze abbondanti di poterne godere, prenderne la propria parte e godere della propria fatica, questo è dono di Dio. Così l'uomo non pensa troppo alla sua vita che passa, perché Dio lo tiene occupato con la gioia del suo cuore.